Dog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Salvatore Buzzi contatta altre cooperative, la Axilium e la Cascina. Un accordo per un affare da 10 milioni di euro. Società più piccole vengono scoraggiate ed escluse dalla gara, altre più grandi vengono inglobate per creare un cartello e tenere alti i prezzi delle commesse. Per ogni migrante il RAS delle coop incassa il doppio. E così ogni richiedente asilo costa allo Stato 40 euro al giorno, 1 miliardo di euro previsto soltanto per il 2015. Ad ogni profugo vanno soltanto 2 euro al giorno. La prefettura ha 1200 posti convenzionati, dice Buzzi intercettato dalle cimici del ROS. Sono 1200 i posti da prendere, la gara è imminente. Avere le informazioni in tempo può fare la differenza. Luca Odevaine è l'uomo giusto, componente al tavolo del Viminale, commissario delle gare. Io immagino che chi mi ascolta ne avrà ormai le orecchie piene di queste cronache legate al fenomeno mafia capitale, avrà anche le orecchie piene chi dice che non esiste una mafia capitale, ma che in realtà erano dei poveri ragazzi un po' intraprendenti, un po' con l'istinto al malaffare. Ma questo non mi interessa, già ho detto, riprendo il filo della trasmissione interrotta, ahimè, venerdì, ma interrotta perché c'avevamo più cose da dire del tempo a disposizione. Oggi la riprendo esattamente come l'ho lasciata l'altra volta, rispetto a quello che è il grande tormentone delle responsabilità della politica, del sapevo e non sapevo. Sembra possibile che gli uomini chiave di tutta la gestione dei fondi dedicati al sociale, cioè ai poveri, agli immigrati, ai rom, ai disabili, ai malati, passassero per due persone, uno che era stato condannato per assassinio e l'altro che era il famoso nero della banda della Magliana. Bastava vedere in televisione il romanzo criminale, lo mandano continuamente in replica. Il nero era Carminati. Carminati aveva, diciamo, libero accesso, era considerato un interlocutore da tutte le istituzioni possibili e immaginabili, da tutte le parti politiche. Detto questo, io voglio capire i meccanismi, il perché e soprattutto la ricaduta da parte delle categorie deboli che in questo avevano naturalmente una deficienza di servizio. Io ricordo che 3 anni fa, lo scrissi anche in un libro, mi resi conto che l'assistenza domiciliare che spettava mio figlio disabile era una bella sommettina, però passava per una cooperativa, sembrava impossibile che non passasse per una cooperativa, ma andava a casa persone totalmente inadatte a gestire un ragazzo disabile. Feci una battaglia, scrissi un capitolo di un libro, scrissi varie cose e ottenni, perché faceva parte dei diritti di ogni familiare disabile, che quella somma fosse destinata alla persona che volevo io. Invece una cooperativa mi mandava a casa, mi ricordo, dei dog sitter un paio di volte a settimana, una persona iperqualificata, formata, che tutti i giorni, tutti i pomeriggi, per la stessa cifra, perché questa è la cifra, si occupa di mio figlio. Ecco, capivo già da allora c'era qualcosa che non andava. Perché nessuno se n'è accorto prima? Don Vinicio Albanesi, buongiorno. Buongiorno a te. Riprendo con Vinicio Albanesi, fondatore della comunità Capodarco di Roma, perché è una persona che da decenni si occupa di queste cose e che probabilmente ci dà alcuni passaggi. Non vogliamo rivelazioni che vadano a toccare gli intoccabili, intangibili territori della politica, ma voglio capire il perché. Leggo ad esempio che il sindaco Castelnuovo di Porto, in qualche maniera avrebbe preso una tangente di 50 centesimi a profugo aperta. Ufficialmente faceva le battaglie per non accogliere i centri profughi di accoglienza, non li vogliamo, come stanno facendo oggi molti politici del nord Italia, ma in realtà pigliava 50 centesimi a profugo. È tanto poco 50 centesimi a profugo, Vinicio? È tanto, perché a me mi sembra poco giorno, 50 centesimi, quanti mani potrà fare al giorno? No, perché poi si moltiplica per le giornate, per il numero, e quindi quando alla fine del trimestre dell'anno fa, e la cifra si alza molto. È una sembra una piccola tangente, un po' come le grandi marchi dei telefoni, dell'internet, che come l'SMS solidale al contrario. Bravo, sì. Esattamente 0,20, 0,30, lo scatto alla chiamata, quella roba lì. Quindi avevano individuato, e questa era la fattispecie, oggi ho letto, non riesco a ritrovare il giornale, la dichiarazione di un ex, non so se pentito o comunque ormai qualificato rappresentante vero della banda della Magliana, dice: nemmeno noi, che eravamo criminali rotti, tutti, a tutte le esperienze, avevamo avuto il coraggio di mettere le mani in qualcosa di così triste, cioè di occuparsi appunto di sgrassare i soldi che giravano sui poveracci. Una cosa, intanto do il numero 800240024, mi piacerebbe che, come l'altra volta è accaduto, adesso risentiremo alcuni ascoltatori che non ho fatto in tempo a sentire l'altra volta, ci facesse avere la vostra testimonianza informata, quelli che comunque in questo giro avevano avuto modo di lambire, toccare o subire. Mi piacerebbe che stamattina mi aiutassero a ricomporre il puzzle. Diciamo dei grandi filoni, Vinicio, che sono stati toccati, che potrei toccarli in gestione dei Rom, campi e affini, gestione, diciamo, della povertà in generale, dalla raccolta degli abiti alle mense, all'assistenza, gestione dei disabili, perché ancora se ne parla poco, ma poi perché conosco la vicenda so bene quante cooperative ci fossero dentro la gestione dei disabili, e per disabili è allargatissimo lo spettro, va dal ragazzo fino all'anziano. E infine poi, quali sono secondo te di questi filoni quelli in cui era più palese e più concretamente percepibile ci fosse qualcosa che non funzionava? Laddove non c'è l'accreditamento, cioè per esempio per i disabili, il discorso è diverso, perché ci sono delle leggi regionali per cui ogni struttura che si occupa di persone che hanno bisogno debbono rispettare determinati parametri, sono controllati anche abbastanza frequentemente, con visite improvvise, per un controllo delle strutture, del personale, delle qualifiche. Invece laddove non esiste una specificità di... Scusami, chiedono una rettifica, tutte le parti politiche una mazza, il Movimento 5 Stelle no, fate informazione, ecco, l'ho detto, va bene, andiamo avanti, coda di paglia, perché scusazzo non petita, comunque va bene. Quindi invece laddove non si esige delle qualifiche, il rischio è altissimo, perché come dicevo nel discorso basta presentare una cooperativa e si partecipa al bando. Naturalmente alcuni bandi sono controllati dalla prefettura, a Roma una situazione particolare perché influiscono sulla commissione che attribuisce le risorse ai vari bandi, quindi è più una situazione romana e di grande città che piuttosto di piccole città, di piccole. Quindi un fenomeno come Mafia Capitale in una piccola città non sarebbe stato possibile? Non solo non è possibile, ma non è nemmeno pensabile, perché la commissione è fittizia, cioè è presieduta da un funzionario del prefetto, il quale per carità si può sempre rompere, però è molto più difficile. Oggi c'è sulla stampa di Torino l'ex assessore al bilancio Linda Lazzillotta, dice che lei ha provato in tutte le maniere a regolare gli appalti, dice, ma ci ha trovato il muro, era boicottata da tutti, sempre dopo viene detto, quando la gente comincia ad andare in galera. Boni, buongiorno, prima ascoltatrice. Buongiorno, senta, io ho chiamato per segnalare una casa famiglia per le mamme emigrate, ragazze, madri. Dove? Provincia di Roma, sì. Dove è stata assunta mia amica come una OS, un aiuto spadigliero, che non era un'infermiera, una OS, e praticamente queste ragazze, signore che sono state assunte, dovevano avere un compito di raccogliere i vestiti per bambini, per queste donne, andavano al mercato, a bancarelle, chiedendo a quegli signori di prendere qualche vestito per questi bambini, per quelle mamme, e portavano questa casa famiglia. Ma cosa serviva loro la qualifica di assistente sanitaria se non andare in giro a raccogliere vestiti? Raccogliere, perché la signora che gestiva ha detto queste non c'hanno niente, quindi bisogna, se voi volete lavorare, bisogna raccogliere questa cosa. Questuare, sennò... questuare abiti usati? No, non erano usati, erano nuovi. Ah, nuovi? Nuovi, bancare, cioè parlo mercatino, ma tutte cose andavano a distribuzione ai bancari, sì. Cioè, per favore dateci qualcosa per i poveretti, questi li avevano. Sì, certo, il personale che c'ha, cioè, banchi, cioè, mercato roba, tutta roba nuova portavano. E poi magari quelle persone, sia le donne che i bambini, dovevano fare o rieducazione o magari una terapia. Quindi quelle che lavoravano erano costrette a prendere la macchina loro per fare accompagnamenti, vari transiti con le macchine proprio, che ovviamente non sono state mai pagate e rimborsate. E questi abiti poi che fine facevano? No, rimanevano là, però la persona che gestiva questo magari si metteva, cioè magari si portava fattura che si è comprata roba per sé, e invece figurava che comprava vestiti per le donne che stavano là o per bambini. Cioè, io mi compro un paio di scarpe e uscita amica mia dopo manca un mese ha detto senti io una condizione così, perché poi c'erano le domande che volevo pure assumermi io, dice no guarda non ci andare perché sarai sfruttata tu assolutamente e vedi come pure cioè sulla povertà di altri sarai pure sfruttata tu. Va bene, poi ho fatto un altro esempio. Carlo, buongiorno, un altro ascoltatore. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. È sempre un piacere sentirla. Volevo dirle che secondo me uno dei problemi è che non esiste un controllo su tutte le azioni che vengono fatte. Il problema è il controllo, non c'è contrapposizione di interessi tra chi controlla, ammesso che ci sia, e chi in effetti agisce, ordina, dispone dei capitali per poter naturalmente effettuare qualsiasi attività di questo genere. Volevo ricordare, da buon veneziano, che già nel 400 la Serenissima aveva creato un sistema di Stato per cui c'erano contrapposizioni di interessi formidabili tra i controllori e i controllati. Questo noi ce lo sogniamo 500 anni dopo, questa è la realtà dell'Italia. Come ieri ho letto Visto l'uomo della Gabanelli, ho scoperto che chi prende gli appalti sulle autostrade sta nella clausola necessaria che si prende anche il controllore della sua stessa opera, che mi sembra una cosa paradossale. Il ministro Del Rio ha detto cambieremo questa regola, ma al momento è così. Ci fermiamo un istante per le informazioni del traffico, tra poco. Melog, cronache meridiane. La gestione dei campi rom e soprattutto dei centri d'accoglienza per migranti a Roma è uno dei business più redditizi. La cupola, pilotata da Massimo Carminati, lo capisce e ci si infila senza esitazione. I profughi e il 81, che tradotto in soldi per quest'anno significa appalti per 42 milioni di euro da parte di Stato e Comune di Roma. Un piatto ricco nel quale la 24.00.24, questa mattina parliamo del problema di mafia capitale provvisto dal punto di vista dell'operazione di sgrassamento dei più deboli, dei più poveri, dei più derelitti, dei più reietti, quello che volete. Che ci sembra che veramente la nota particolare, al di là delle compromissioni fra politica, malaffare e istituzioni, che è un discorso vecchio. Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, l'ascolto, eh? Sono in possesso di tanto di quel materiale che gradirei prima di tutto incontrarla, perché ho paura a parlare alla radio, non vorrei che uno di quelle persone... Guardi, se lei vuol fare la fonte riservata ha già trovato il canale sbagliato, lo dice alla radio, già il mondo lo sa. Sì. Se ha materiale importante lo dia a chi di dovere, anche perché la cercheranno adesso che l'ha detto alla radio, questo è poco ma sicuro. Mi dicalo, vediamo un po' di capire poi intanto qual è il suo punto di vista, va, al di là del materiale. Il mio non è un punto di vista, è una constatazione. Ma lei che mestiere ha fatto, che lavoro ha fatto? Io ho lavorato praticamente in una cooperativa sociale, una di quelle formate da Don Colmegna, che faceva parte era il presidente Caritas, che poi se n'è andato e ha preso un'altra strada. Ma questo dove? In che città? In provincia di Milano. Di Milano, è un'altra zona però, eh? Sì, che cosa succede? Che praticamente queste sono cooperative che fatturano anche dai 2 ai 2 milioni, 3 milioni di... E da che cosa è dato? E di cosa si occupano? Quali sono le attività? Esatto, le lo stavo dicendo. Raccolgono, sa, quei cassonetti gialli che ci sono in giro, dove praticamente si buttano gli abiti dismessi. Però a Roma facciano parte del business di mafia capitale, questo è stato appurato. Infatti adesso nessuno più li raccoglie. E qui praticamente il tutto viene poi venduto sui mercati, cioè loro vendono tutto della gente di Napoli e tutta roba che poi va a finire. E sul cassonetto c'è scritto invece devono andare ai poveri. E il denaro della vendita, che fine fa il denaro della vendita? Va in opere buone? Lo prendono loro. Vinicio, questa cosa dei cassonetti è qualcosa che tu avevi mai nasato o orecchiato o pensavi è caduto Vinicio? Un attimo, mentre riprendete Vinicio Albanesi, sentiamo Hernandez, buongiorno. Buongiorno, salve. Allora, io sono un fisioterapista di Caserta e penso che più o meno la questione è sempre la stessa, no? Forse si scosta un po' del problema di mafia capitale, ma è quasi tutta l'Italia che succede questa cosa. Allora, noi già insieme alla Federazione di Fisioterapisti Italiani in passato abbiamo messo un problema che lo Stato, le terapie che vengono passate ai pazienti hanno un valore per l'ASL, per lo Stato, circa 48 euro a terapia, più o meno, facciamo su per giù. Un fisioterapista che lavora in uno di questi centri, in genere sono fisioterapisti appena laureati, eccetera, sì, viene pagato intorno ai 9,60 euro lordi a terapia. Quindi c'è un margine, c'è una cresta grossa, sì, che fa la copertura. C'è un margine che va direttamente a questi centri convenzionali, no? Guardi, è abbastanza ottimistico, perché nel caso che avevo citato io era diverso, era 30 euro all'ora, l'operatore se ne prendeva 5, ma non aveva nessun tipo di qualifica. Fa parte di questo tipo di meccanismo. Abbiamo ripreso Don Vinicio Albanese. Vinicio, sì, parlava un ascoltatore da Milano di un giro di raccolta abiti su cassonetti gialli che è ancora, diciamo, in auge a Milano, quando si è capito a Roma in realtà quello che è accaduto. Lui dice che raccoglievano questi abiti, poi se li vendevano e si incassavano i soldi. Ma lì c'è stata una trappola, perché la raccolta degli abiti usati è nata come raccolta per aiutare effettivamente chi ne aveva bisogno. Poi per smaltire, diciamo, questa enormità di quantità di vestiario, sono state affidate a società le quali hanno fatto di tutto e di più. Cioè loro pagavano tanto a chilo, poi questo materiale lo selezionavano, lo rivendevano, quindi c'è stata da una parte un'ingenuità, dall'altra questo azzannaggio anche di buone intenzioni. Questo è capitato anche addirittura alla Caritas. Infatti ha citato quello che ha citato il nostro ascoltatore, sì, di Milano, quindi era ben informato, c'è tanto, sì, documento, sì, ma sì, niente documenti, sì, che non sappia Don Vinicio. Senti, invece mi sta scrivendo un ascoltatore, lo tocchiamo semplicemente anche perché è un problema complesso di cui ho straparlato. Perché un comune deve mantenere un campo rom? L'abbiamo capito perché. Perché è un business enorme. Vorrei io, se fossi senza scrupoli, avere in gestione un campo rom, avrei risolto i miei problemi. Il problema è che i campi rom, il problema dei rom non è stato affrontato né oggi né ieri da tutta Europa, quindi è una gara a cacciarli. Naturalmente ne esistono 14 milioni in giro per l'Europa e nessuno sa che farne, dove metterli, quindi hanno inventato questa storia dei campi presidiati, anche qui. Che è un'invenzione italiana questa qua, sì, è un'invenzione italiana perché non funziona. Perché sì, funziona per chi li gestisce, però mi sembra che i ricavi di chi gestisce un, sì, campo rom sono straordinari. I risultati che hai sono minimi, sia per chi ci lavora perché vengono sfruttati, e sia per gli stessi soggetti che sono dentro, che vivono una vita da cani quando la fine. Sì, però tutti, cioè, i soldi chi se li prende allora? Chi prende, chi fa il mediatore, chi fa l'azzannatore delle risorse. Ecco, tu dici una parola, azzannatore. Vinicio, visto che ancora siamo nuovamente arrivati alla fine, ma avevi tu l'impressione che ci girassero tanti soldi pubblici dedicati alle persone alle quali tu hai dedicato una vita, quindi i poveri, no, i disabili? No, no, non immaginavi che c'erano tanti, no, soldi? Non lo pensavo. Non lo pensavo, perché quando tu hai molto denaro ma lo spendi adeguatamente, tratti le persone secondo i contratti, c'hai le strutture adeguate, sei attento, il denaro non è eccessivo. Diventa un guadagno quando qualcuno s'appropria e quindi tratta male i dipendenti, non dà quello che deve dare, non fa quello che deve fare, e quindi diventa un business. Ma di azzardato dire se tutto questo denaro, che è un fiume denaro, invece che comprare le ville per Buzzi e Carminati, fosse stato usato in maniera corretta, in Italia avremmo un welfare fantastico, e come per esempio per le famiglie. Se invece di spendere 2000 euro per un ragazzo accolto ne si desse questo denaro, lo si desse a persone adeguate, risparmieresti la metà, il ragazzo starebbe meglio e non ci sarebbero appropriazioni indebite. Questo è il punto di riflessione che lascia a me, ascoltatori. In Italia potremmo aver risolto molti problemi in maniera molto più felice, legati al disagio, alla povertà, alla malattia, all'handicap, se in realtà qualcuno non ci avesse messo le grinfie sopra. Alla prossima.